Pechino Express iniziò la sua terza stagione da Mandalay, la seconda città più grande della Birmania. Facciamo tappa in questo piccolo spazio di terra nel cuore del sud-est asiatico, tra Bangladesh, Cina e Thailandia. Benvenuti in Myanmar. Abbiamo girato e rigirato Google Maps e a una certa avemo puntato il dito. Boom! La Birmania. Ando sta? Chi ci abita? Che fanno? Così ci siamo documentati e abbiamo scoperto molte cose interessanti. Ex colonia inglese fino al 1948, questo paese racchiude in sé molte diversità etniche e culturali. Con 55 milioni di persone, un buon 70% è costituito dall'etnia dei Bamar, birmani, il restante 30% invece include le altre etnie dei Karen, i Rakhine, gli Shan, i Mon, i Chin e i Kakin. Per pura casualità ci siamo imbattuti in un curioso locale, il Pegu Club. Ex ritrovo della nobiltà inglese in epoca vittoriana, situato a Rangoon, l'attuale Yangon, nel sud del paese, è diventato celebre per via del cocktail inventato lì nella seconda metà dell'Ottocento. Chiuso ormai dagli anni 40 dopo la ritirata degli inglesi, il nome era destinato a durare negli anni, legando il mito di un club a quello di un cocktail. Dopo questa incredibile scoperta, ci siamo messi alla ricerca di altri cocktail da inserire in questo menù e di un panino che potesse in parte rappresentare l'unione di questi due mondi così diversi. Il lavoro non è stato facile. Tutte le ricerche portavano al Nam Bia, una versione del naan indiano, e altre mille varianti del banh mi vietnamita. Poi è arrivata la svolta. Il Golden Myanmar. Banh, pollo sfilacciato e cipolle fritte. La descrizione sembra già fissarlo tra i primi posti della nostra classifica. L'iscrizione al Pegu Club, con la relativa tessera d'associazione, ha un costo di 15 euro. Il proverbio locale dice: Lukaung tai tai tiautar a mia eltam pioshvin noi marpar. Un buon uomo è sempre felice. Grazie per l'ascolto.